Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Charles Darwin, nella sua teoria dell'evoluzione, ha affermato che ogni forma di vita esistente deriva innanzitutto dall'acqua. L'acqua è l'origine della stirpe umana ed è l'origine anche della storia di un'artista peculiare, nata appena sotto il circolo polare artico, laddove l'acqua passa dallo stato liquido a quello solido, trasformandosi in scintillanti superfici ghiacciate. Credo che l'influenza dell'Islanda sulla mia musica sia un'influenza di tipo organico. È una cosa connaturata. Il fatto che d'estate ci siano 22 ore di sole e d'inverno 22 ore di buio. Il fatto che nel paesaggio ci siano iceberg o eruzioni vulcaniche. Beh, qui è una cosa del tutto normale. Non ci sono alberi ed è normale anche questo. La voce che avete appena sentito, all'apparenza così fragile e fanciullesca, è quella di una donna che, pur avendo un aspetto da bambina, sa decisamente il fatto suo. È la voce di un artista che, con la forza dirompente delle sue corde vocali, ha saputo rivoluzionare il panorama della musica pop degli ultimi due decenni. Una donna sopra le righe, avvolta da un'aura costante di magia, proprio come l'isola da cui proviene. Islanda, in lingua inglese, si traduce con il termine Iceland, che letteralmente significa l'isola del ghiaccio. E in islandese la parola Island vuol dire proprio la stessa cosa. Un luogo remoto ai limiti del mondo, congelato in una bellezza quasi aliena, forse proveniente da un altro pianeta. Forse anche Björk, dopo tutto, proviene da un altro pianeta, da un'altra galassia. Björk è nata in una terra dove, secondo un poema nordico, in principio fu la musica. Un destino segnato il suo, una vicenda personale e artistica che non avrebbe potuto andare diversamente. L'Islanda ha certamente influenzato il mio modo di cantare, perché io, da bambina, ho passato un sacco di tempo in mezzo alla natura. Il mio modo di cantare si è formato da solo in questo ambiente. Non so come dire, non è stato influenzato da altri cantanti o cose del genere. Un neonato avvolto in una soffice coperta, posto dentro una culla. Una neonata, per la precisione. Lei è la piccola Björk Gundersdottir, così diversa nell'aspetto dagli altri bambini della sua età. Ha gli occhi un po' orientali, a mandorla e lo sguardo vagamente fatato. Reagisce alle melodie con gridolini di piacere, agitando in maniera scomposta le minuscole mani. Non appena impara a camminare, inizia anche ad ascoltare e ripetere fedelmente le canzoni, con una precisione che tradisce un orecchio musicale fuori dal comune. Si siede al pianoforte della nonna e inizia a suonarlo, senza che nessuno le abbia detto di farlo né tantomeno come. Le riesce incredibilmente facile indovinare quale, tra quella lunga fila di tasti bianchi e neri, sia quello giusto da premere per produrre insieme agli altri un suono armonioso. Una cosa innata, non c'è nessun'altra spiegazione. Certo, l'ambiente e il modo in cui cresce non fanno altro che aumentare la sua naturale inclinazione verso l'arte. I genitori di Björk si separano quando lei ha appena 5 anni e mentre il padre acconsente a iscrivere la piccola al conservatorio, la madre va a vivere niente meno che in una comunità hippie. Avevano tutti i capelli lunghi e ascoltavano Jimi Hendrix dal mattino alla sera. E ogni cosa era dipinta di viola. Avevano tutti sogni e progetti fantastici, tipo andiamo a vivere su un aeroplano e cose del genere. Il che per un bambino, beh, è il massimo. Ti immagini che meraviglia crescere insieme a 7 adulti che odiano lavorare e non vedono l'ora di giocare con te o di raccontarti una storia o di costruirti un aquilone. Per forza che poi ci ho messo un sacco di tempo da piccola ad interessarmi agli altri bambini. Ero già occupata da un sacco di cose interessanti. Il cortile di una scuola elementare. Tanti bambini che, come le palline impazzite di un flipper, corrono da tutte le parti in direzioni imprevedibili. E poi ce n'è una che sta un po' in disparte. L'aria trasognata è un po' distante, ma non certo per superbia, no. Distante come se fosse piombata lì in quel cortile affollato direttamente da una nave spaziale giunta da chissà quale pianeta. Del resto, la vita a contatto con i coetanei non è facilissima per Bjork. Gli altri bambini la prendono in giro per il suo aspetto, così diverso da quello comune a tanti islandesi. La chiamano la cinese. I suoi tratti somatici ricordano quelli di una bambina orientale, niente a che vedere con gli altri figli del nord. Occhi all'ingiù, capelli neri come il carbone, lentiggini. Il suo aspetto, prima ancora del suo comportamento, fa di lei una diversa. E la solitudine un po' forzata e un po' voluta è una compagna perfetta per i suoi viaggi quotidiani nel magico mondo dell'arte e della musica. Il solo fatto di camminare andando a scuola, magari passo dopo passo nel bel mezzo di una tempesta, sono cose che capitano normalmente in Islanda. E poi magari la tempesta di neve finisce, il vento smette di soffiare e tutto torna quieto e attutito. Allora ti accovacci sul muschio e magari ti viene in mente il verso di una canzone, una cosa inventata lì, sul momento. Poi corri verso la sommità di una collina e lì ti viene in mente il ritornello. E ti tocca gridarlo a squarciagola perché nel frattempo la tempesta di neve è tornata a farsi sentire. Un tutt'uno con la natura e un tutt'uno con la musica, soprattutto. Al conservatorio c'erano queste classi di ascolto. Ci facevano ascoltare i grandi compositori europei, che è una cosa fantastica quando sei così giovane. Ti fanno ascoltare Rimsky-Korsakov e tu reagisci in maniera completamente intuitiva. Quel disco agisce a livello emotivo. On emotional level. La musica classica, le canzoni pop, le melodie tradizionali islandesi, tutto concorre a formare e alimentare la sensibilità artistica della giovanissima Bjork. A furia di nutrirsi di musica, cantare per strada e sui mezzi pubblici, allestire spettacoli casalinghi per i genitori e i loro amici strambi, beh, prima o poi succede che qualcuno ti chieda di cantare qualcosa per davvero. Che cos'è in fondo un palcoscenico? Un ammasso di assi di legno e niente di più. Stiamo parlando oltretutto non di un palcoscenico prestigioso, ma di quello del teatro di una scuola, l'istituto di Reykjavik, frequentato da quella bambinetta un po' strana che di nome fa Bjork. Il pavimento scricchiola sotto i suoi piedi minuti mentre si dirige a passo sicuro verso il proscenio. Quelle, dopotutto, sono solo assi di legno, non le fanno paura. Lei non è emozionata in senso canonico, in questo caso emozionata non è sinonimo di agitata. È piena di emozioni positive, questo sì. È il suo debutto ufficiale, la sua prima volta davanti a un vero pubblico. Si tratta di cantare una famosa canzone pop alla festa della scuola. Quando intona I Love to Love di Tina Charles, tutti restano sbalorditi. Ma da dove diavolo arriva quella voce così cristallina? Gli insegnanti non credono alle proprie orecchie. Sono così entusiasti di ciò a cui hanno appena assistito, da prendere subito una decisione. Porteranno il nastro con sopra incisa quella voce magica alla radio nazionale islandese. A 11 anni Bjork finisce on air in tutta la sua isola, una piccola celebrità locale, un'occasione per i discografici da non farsi sfuggire. Una strana versione di The Fool on the Hill dei Beatles, cantata in lingua islandese da una ragazzina di 11 anni. È solo uno dei 10 brani contenuti nell'album di cover intitolato semplicemente Bjork. È la sua prima fatica discografica. Beh, non proprio del tutto sua, a dire il vero. Mi è sempre sembrato strano che su quell'album ci fosse scritto, bello grosso, Bjork. Non c'era niente di mio in quel disco. Sì, avevo collaborato con qualcuno per scrivere giusto una delle canzoni, ma insomma, quella volta ho promesso a me stessa che non avrei mai più fatto niente del genere. Non avrei mai più fatto nulla che non sentissi davvero mio. Non ci avrei messo semplicemente la faccia, ecco, ma anche tutto il resto. Un debutto precoce, quello di Bjork. Troppo precoce per trovare il modo di esprimere un'interiorità complessa, una personalità artistica che a quell'età non è ancora del tutto formata per giunta. Per fortuna, la vera valvola di sfogo della sua creatività multiforme, Bjork la trova lo stesso, non a scuola, non al conservatorio e nemmeno in qualche studio di registrazione che odora di operazioni commerciali e soldi facili. La sua ancora di salvezza, Bjork, la trova nell'aria, in giro per le strade di Reykjavik. All'inizio degli anni Ottanta, un'ondata di band proto-punk travolge la quiete Islanda con la forza di un ciclone. Bjork c'è dentro fino al collo. Fu un'esplosione gigantesca. Tutti erano in una band, chiunque. È stato un periodo, folle. Precoce in tutto e per tutto, a 14 anni Bjork ha già fondato una punk band di sole ragazze. Si chiamano Spit and Snot, sputa e smoccola, letteralmente. Anticonformismo lessicale? Perché no? Punk arricchito da sfumature jazz. Anche perché gli Exodus, una band con cui suona per un breve periodo, sono proprio un gruppo jazz fusion. Poi Bjork si perde nel pop con venature punk dei Tappi Tikaras e in una miriade di altri progetti e fantasie, finché non incontra un magnifico destino. L'ennesima band in cui milita quella teenager scatenata di Bjork sono i Kukel, formazione goth rock in cui suona anche Einar Orn Benediktsson, musicista capace di catturare l'attenzione delle platee con la sua voce corrosiva e la sua fortissima presenza scenica. Tra lui e Bjork nasce subito una grande intesa artistica. E i Kukel sono audaci, come Einar, ma al contempo trasognati come quella giovane islandese eccentrica, diversa da chiunque altro. E se nel frattempo lo slancio del punk rock in Islanda è finito, dall'unione degli antichi fuochi dei Kukel con una nuova spiccata vena surrealista, prende vita un'ennesima band. Bjork proprio non ci riesce a stare ferma e Einar la segue. E così, dalla fusione dei loro talenti che nascono gli Sugar Cubes. Ottobre 1987. Un gruppo di ragazzi islandesi osserva con stupore la pagina di un giornale. Su quella pagina c'è scritto proprio il loro nome. Loro sono gli Sugar Cubes. E la rivista che fissano con aria incredula è il Melody Maker, longevo e popolarissimo settimanale di musica britannico, che ha appena incoronato il loro primo singolo, Birthday, come disco della settimana. È così che gli sconosciuti Sugar Cubes, venuti dai ghiacci dell'Islanda, si ritrovano d'improvviso a scompaginare le classifiche musicali salendo rapidamente agli onori della cronaca. Certo, sono una band di ben 6 musicisti, ma a dire il vero alla stampa non interessano tutti e 6. I giornali sembrano letteralmente andare pazzi per quella ragazza dalla voce potentissima racchiusa in un viso da bambina. Le copertine e le interviste sono tutte per lei. Einar non apprezza e le tensioni nella band iniziano ben presto a farsi evidenti. Come se non bastasse, Bjork comincia a scalpitare. La sua voglia di sperimentare comincia a rivendicare tempo e attenzione. Anche se, come dire, intellettualmente era stato un periodo molto stimolante, sai com'è, sempre a contatto con gente che parlava di poesia e di arte, però dal punto di vista musicale non mi divertivo più. Non sentivo più alcuna sfida. Sai, io intanto ero cresciuta ed ero affamata di esperienze. Non vedevo l'ora di incontrare persone che vedessero la musica nello stesso modo in cui la vedevo io. Se la porta degli Sugar Cubes si chiude, per Bjork si apre una finestra che le consente di fare quello che vuole. L'amatissima Islanda può fare a meno della sua presenza per un po'. È giunto il momento di andare dove si creano nuovi suoni, all'inizio degli anni 90, quel posto. È senza dubbio Londra. Siete mai stati nella metropolitana di Londra? Un intreccio inestricabile di linee, di treni e stazioni di diverso aspetto e dimensione, di persone che ogni giorno salgono e scendono per le scale mobili, sciamando nei lunghi corridoi d'accesso alla cosiddetta tube. È così che gli inglesi chiamano la loro metropolitana. E standovi seduti, sfrecciando veloci nei suoi tunnel, si sentono i rumori delle lamiere e dei binari mescolati alla voce dei passeggeri, a quelle degli altoparlanti, alla musica che proviene dalle cuffie di qualche vicino, magari un po' di jungle o di trip hop, nuovi suoni che all'inizio degli anni 90 irrompono sulla scena musicale inglese. Bjork è affascinata da questo caos creativo, da questo movimento vorticoso. Ha molte canzoni in testa, in fondo scrive fin da quando era piccola. Le serve qualcuno che l'aiuti a dar loro un aspetto, una forma. Qualcuno che, come lei, abbia voglia di sperimentare. All'inizio ero un po' sospettosa. Dovevo informarmi bene su quello che aveva fatto nella sua carriera, insomma. Mi piacevano le cose che faceva, ma quando uscivo per andare a ballare, io preferivo l'hardcore techno o la musica industriale. Beat duri con dentro qualche cosa di diverso, di sperimentale. Pensavo che Nelly fosse troppo di buon gusto per piacere ad una come me. Ma poi, niente, è successo che l'ho incontrato. Bjork incontra Nelly Hooper, produttore che ha già lavorato con i Soul to Soul e i Massive Attack. All'inizio teme che lui non voglia spingersi troppo in là, che non sia abbastanza coraggioso per assecondare la sua ansia di sperimentare suoni nuovi. Ma si sbaglia. La disciplina di Hooper non è un limite, tutt'altro. È la forza che riesce a indirizzare le mille follie creative di Bjork in un unico flusso coerente. I brani che Bjork ha scritto in anni e anni di pratica musicale stanno per confluire in un disco nuovo, sorprendente. Uff, la musica pop è diventata così stagnante. E questo è un vero paradosso, perché dovrebbe cambiare ed evolversi di giorno in giorno. Credo che nessuno faccia album pop decenti, ormai da diversi anni. Se il pop non sa più produrre dischi di qualità che sappiano soddisfare i palati di tutti, ci pensa Bjork a ristabilire un po' di ordine. E per farlo usa il suo splendido, irresistibile disordine creativo. L'islandese Bjork è approdata a Londra per tentare la carriera come solista. Ha militato in molte band fin da quando era ragazzina, ma questa è la sua prova del fuoco. Anche se è ormai una veterana della musica e ha già pubblicato vari dischi insieme ad altre persone, per lei questo è il vero debutto. Ed è proprio così che si chiama il suo nuovo album, Debut, semplicemente. Voglio che la musica di quest'album sia un pop che tutti possono ascoltare. Penso che il fatto di non restare fissi su un particolare stile musicale renda il tutto più realistico. La vita non è mica sempre uguale, no? Non si vive sempre nello stesso modo tutti i giorni. Accadono cose che non ci aspettiamo, cose che sfuggono al nostro controllo, eccetera. Questo album è così. Una canzone parla dell'umore che hai quando cammini a piedi verso il bar sotto casa. Un'altra parla dell'essere ubriachissimi in giro per qualche locale. E quella dopo parla del sentirsi romantici e di fare l'amore. Più di 600.000 copie in 3 mesi. Nell'estate del 1993, Debut viene sospinto nell'Olimpo delle vendite da un sostanzioso passaparola e da recensioni davvero entusiaste. Qualunque aspettativa più rosea di Bjork e dei suoi collaboratori si attestava ben al di sotto di questa cifra. Niente male per una debuttante. Il personaggio che vedete sulla copertina di Debut ha tutta l'aria di essere una principiante un po' timida, educata. Ed è proprio così che mi sentivo. Nelly Hooper ha azzeccato la formula esatta e ha saputo dare a Bjork la spinta e i giusti consigli per armonizzare all'interno di un solo disco pezzi scritti nell'arco di almeno un decennio. Ogni canzone che scrivo, ha tutta una storia dietro. Alla fine la canzone in sé, rispetto all'evento che c'è nascosto dietro e che le ha dato vita, è solo la punta dell'iceberg. Chiunque siano i miei collaboratori, non importa che si tratti di musicisti, di fotografi o di registi, io a loro racconto la storia che ci sta dietro, tutta intera. Già, perché il segreto del successo di Bjork non risiede solo nella sua arte, nella creatività che scorre senza sosta nelle sue vene, ma anche nell'immaginario che altri artisti, altri professionisti in altri campi hanno saputo creare intorno alla sua persona e al suo personaggio. Bjork è sdraiata sul letto della sua camera in un hotel parigino. Ha avuto una lunga giornata, il suo disco è appena uscito e sta facendo un sacco di promozione. Un tour estenuante per lei che alla notorietà, quella vera, non è ancora abituata. È stanca, stanca morta. Non appena rientra in hotel toglie le scarpe, sprofonda la testa fra i cuscini e accende la TV. La sintonizza su MTV France. Tiene il volume piuttosto basso, ma non può fare a meno di notare le immagini che si avvicendano sullo schermo una dopo l'altra. Si tratta di un video musicale di una canzone degli Oui Oui, modesta band del panorama indie rock francese. Il pezzo non è niente di indimenticabile, a dire il vero, ma le immagini, beh, quelle sono un altro discorso. Bjork non riesce a staccare gli occhi dalla TV. Deve assolutamente scoprire chi ha girato quel videoclip. La ricerca non si rivela troppo difficile. Il regista è uno dei membri della band stessa, il batterista per la precisione. Si chiama Michel Gondry. Suona la batteria e si diletta col videomaking, anche se di mestiere in verità fa il grafico. In pagina calendari, decisamente poco esaltante. Ancora non lo sa che la sua vita sta per cambiare all'improvviso. Human Behavior è il primo singolo estratto da Debut. Il video lo gira proprio Michel Gondry. Bjork si è innamorata di lui, artisticamente parlando. Sente che dal loro connubio non possono che nascere grandi cose. Come vedo io Michel? Beh, è una persona sempre entusiasta, è sempre pieno di energie e sempre molto preciso anche. E poi c'è questo lato del suo carattere che a me affascina molto e che mi ricorda un po' Woody Allen. È sempre un po' nevrotico, terrorizzato dall'idea che il mondo imploda all'improvviso nel giro di 5 minuti, no? Ho sempre pensato che fosse una cosa deliziosa questa. E mi piace moltissimo mettermi lì a cercare di convincerlo del contrario. L'affinità tra i due è palpabile fin dal primissimo incontro. Iniziamo subito a parlare dei nostri punti di riferimento. Del fatto che ci piacevano molto certi tipi di film, i film d'animazione dell'Europa dell'Est, una combinazione di high-tech, low-tech, di cose fatte a mano. Accadde tutto molto in fretta. C'è fermento sul set del video di Human Behavior. Michel Gondry e Bjork vogliono ricreare un bosco nel bel mezzo di uno studio di pose, disseminandolo di strane presenze. Un gigantesco orso di pezza, un cacciatore minaccioso, un riccio impaurito, enormi falene. Insieme vogliono ricreare un'idea complessa di natura. Per questo escono continuamente nei giardini davanti all'edificio in cui si trova lo studio per raccogliere muschio, erba, rami, foglie. È la prima volta che a Gondry capita di avere un budget decente per girare un video e non vuole certo sbagliare. Sente che questa è la sua grande occasione. Bjork la vede allo stesso modo. Sa bene che quel video in potenza è un amplificatore di se stessa. Un'incredibile storia per immagini che può funzionare per definire ancora meglio la sua immagine e il suo immaginario, in bilico tra il fumettoso e il trasognato. Sa che il talento visionario di Michel è quello che fa al caso suo, ma non immagina certo il successo strepitoso che avranno di lì in avanti i suoi videoclip. Una timida ragazza nata in una casupola di legno nel bosco va in città e diventa famosa, conquistando la ribalta e le luci del palcoscenico. È la storia di Bjork, ed è anche quella della protagonista da lei stessa interpretata, dell'ennesimo videoclip girato per lei da Michel Gondry, questa volta per il singolo Bachelorette. Insieme ne realizzano 6 in 4 anni, tra il 1993 e il 1997, gli anni in cui vengono pubblicati 3 album della cantante, da Debut a Homogenic, passando per Post. Se Debut era il disco di una debuttante, Post è un lavoro più maturo e Homogenic completa ulteriormente la crescita personale e artistica di Bjork, segnando anche un ritorno alle sue radici islandesi in qualche modo. Post è di sicuro il disco in cui si sono fatte più vive le mie relazioni musicali. Ho collaborato con le persone che frequentavo a Londra, quelle con cui uscivo la sera e andavo a ballare nei club. Mentre Homogenic è diverso, è un disco che parla di una persona che si trova in qualche modo in una situazione di difficoltà, che deve vivere con un sacco di pressione addosso, ed ero io. E c'è un altro aspetto di questo personaggio di Homogenic. Il fatto che si facesse, che mi facevo molte domande sull'idea di essere un artista di fama internazionale. La mia musica ormai suona in tutto il mondo, ma io cosa sono? Islandese? Da dove vengo? Quali sono le mie radici? Eccole qui le radici, un ritorno ideale all'Islanda. In Homogenic, Björk omaggia la sua terra con quintali di violini mischiati a beat e suoni rubati direttamente ai vulcani, ai geyser, ai sobbollimenti naturali della sua amata isola. Dalla copertina dell'album, vestita dallo stilista Alexander McQueen, Björk guarda gli spettatori dritti in faccia, per nulla impaurita nonostante i ritmi massacranti imposti dal successo. Due giorni di pausa in tutto il 1993 e forse giusto un giorno di vacanza nel 1994, compresi i weekend e le vacanze di Natale, naturalmente. Ci penserà qualcun altro ad allontanarla, almeno per qualche tempo, dalla musica. Ho visto questo video, il video di It's All So Quiet, e ricordo di aver pensato, questa qui è completamente pazza. La voce che avete appena sentito non appartiene a un musicista, né tantomeno a un regista abituato a lavorare con i videoclip. Le immagini che lo hanno colpito sono firmate dal giovane Spike Jonze, che insieme a Michel Gondry è un'altra nuova leva dell'arte dei videoclip. Lui è un regista puro, invece. Al Festival di Cannes, tanto per dire, è uno che non passa mai inosservato. E nel 1996, giusto una manciata di anni prima, ha anche vinto il Gran Premio della giuria con il suo lungometraggio Le Onde del Destino. Lui è Lars von Trier e qualcosa gli dice che Björk sarebbe l'interprete perfetta del suo prossimo film. Perché non contattarla e scoprirlo? I magnifici destini. Il regista Lars von Trier ha deciso che Björk è l'interprete perfetta per il suo prossimo film, Dancer in the Dark. Si tratterà di un musical, e lei dopotutto è una cantante, no? Ma come convincerla a prendere parte all'impresa? Beh, innanzitutto proponendole di scrivere la colonna sonora, poi, come dire, lavorandola ai fianchi. Finirà per capitolare e accetterà di interpretare la parte. Björk non è un'attrice professionista. Lavora principalmente d'istinto. La sceneggiatura di Dancer in the Dark la affascina moltissimo. Si tratta della storia strappalacrime di un'operaia cecoslovacca immigrata negli Stati Uniti, affetta da una grave malattia agli occhi e derubata di tutti i suoi averi. Una storia triste, no? Ma il bello deve ancora arrivare. Quel pazzo di Lars von Trier ha intenzione di trattare un argomento tanto duro in un musical infarcendolo di canzoni, numeri di danza, esibizioni corali. Un contrasto stridente, eppure perfetto. Dancer in the Dark le sembra una sfida troppo bella per non volervi partecipare. E per il brano principale della colonna sonora, il tema musicale più importante e riconoscibile del film, Björk pensa di coinvolgere un altro musicista, un collega che stima moltissimo. Si tratta del cantante dei Radiohead, Thom Yorke. Il fatto che lei sia nata con questa voce incredibile, che allo stesso tempo è sexy e infantile, beh, se la guardi in faccia, pensi che non potrebbe fare del male a nessuno. Però poi irrompe quella voce e ti chiedi se non stia per distruggere tutto con un acuto. Non essendo un'attrice di professione, ma essendo comunque un inguaribile perfezionista per natura, Björk si è vista costretta a immedesimarsi completamente nel personaggio. Lei non è un'attrice, non sa fingere. Interpretare per lei vuol dire ricalcare passo dopo passo non solo le mosse e le coreografie, ma anche i sentimenti e il dolore infinito provato da Selma, la protagonista del film. Un lavoro duro, massacrante. Così intimamente massacrante da convincerla a non ripeterlo mai più. La sua strepitosa interpretazione in Dancer in the Dark sarà l'ultima esperienza cinematografica, lo giura a se stessa. Intanto però Björk si porta a casa niente meno che la Palma d'Oro del Festival di Cannes per la migliore interpretazione. Non male come riconoscimento per una che di mestiere fa la cantante. Si vous me permettez une petite fantaisie, j'aimerais l'annoncer en chantant. It's oh so quiet. Björk! Il duro lavoro sul set si riflette inevitabilmente anche sulla sua musica. Dopo Dancer in the Dark il suo approccio cambia, per sempre. The girl in Dance in the Dark. La protagonista di Dancer in the Dark era molto introversa. Sentiva tutti questi rumori, quei suoni strani dentro la sua testa. Era come se fosse dentro una bolla, dentro un universo chiuso, tutto suo, esclusivo. Quindi Vespertine è stato un disco introverso. Un disco che rifletteva non il mio rapporto con l'esterno, ma tutto quel che succedeva dentro di me, sotto la mia pelle. Björk all'inizio del nuovo millennio smette di cavalcare il successo del pop alla MTV per entrare con coraggio in territori sempre più sperimentali, evitando di scegliere il percorso più breve o più semplice. Ma la semplicità, alla ricerca della via più facile del resto, non è mai stata il motore delle sue azioni. Negli ultimi anni il talento di Björk si è espresso seguendo percorsi sempre nuovi e sempre più lontani, forse dalla musica mordi e fuggi, che si è abituati ad ascoltare in giro. Eppure lei non è una musicista snob, tutt'altro. Non fa musica per un'elite intellettuale, ma per le masse, per la gente comune. Fa musica che sia in grado di arrivare alle orecchie e al cuore di chiunque. Una sorta di moderno folk artico, in un certo senso. What's great about pop music is that it's, La cosa bella della musica pop è che può traghettarti improvvisamente, nel giro di pochi secondi, in un luogo pieno di emozioni. E questo luogo è ben comprensibile e frequentato da molte persone. Io, che musica ho fatto nella mia carriera? Pop? Modern folk? Io nel mio cuore sento di fare musica per tutti, per le persone che si incontrano per strada ogni giorno. Ci sono molte persone, dal critico musicale all'uomo comune, che certamente dissentirebbero. Gli ultimi lavori di Björk, da Medulla a Biophilia, passando per Volta, non sono propriamente musica per le masse. Sono un coacervo di suoni spesso difficili, ricercati, mutuati sia dalla musica classica che dall'elettronica o addirittura dai rumori ambientali. Forse questo è un modo prettamente nordico di fare musica pop, di insegnare alla gente comune qual è il significato profondo del fare musica, ovvero lasciarsi andare, sperimentare, affrontare sfide e territori sconosciuti, senza avere paura di perdersi. Significa avventurarsi in territori ostili, gelidi e ricoperti di ghiaccio, inospitali, eppure così incredibilmente familiari. Io ho un'affinità con i luoghi freddi, coi luoghi artici. Credo che la passione mediterranea sia stata documentata ormai con dovizia di particolari, che sia stata appetibile e desiderabile per secoli. Ma credo che esista anche un tipo di passione artica e che sia molto diversa. Non è più o meno appassionata dell'altra, è solo diversa. È più profonda, come se fosse in un sottomarino. Non esplode così facilmente all'esterno, ecco. La passione artica, proprio come Björk, è un meraviglioso vulcano apparentemente assopito tra i ghiacci islandesi.